Europa è Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Cari ascoltatori, un saluto, un buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Roberta Frisani in regia. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col nostro magazine del sabato sulle notizie che appunto arrivano dall'Europa, sulle decisioni più importanti, ma anche su alcune iniziative che in prospettiva possono segnare quello che è il nostro calendario e la nostra vita, ovviamente, di cittadini europei. Ovviamente, direi, questa settimana ripartiamo dalla Brexit e dalla lunga trattativa in corso, appunto, di fatto iniziata immediatamente dopo il voto britannico, ormai del giugno non scorso, ma quello precedente. Tanto tempo è passato e oggi abbiamo una notizia. Ammonterà dunque a una cifra compresa tra i 35 e i 39 miliardi di sterline, cioè 40-45 miliardi di euro, il cosiddetto conto del divorzio che il Regno Unito dovrà pagare all'UE per la Brexit. Questa è una fonte britannica vicina ai negoziati, mentre a livello ufficiale la somma resta coperta dal riservo, ma in realtà di questa cifra si parla ormai con forza. Il dossier e gli obblighi finanziari britannici sono stati di fatto i punti, alcuni dei punti dei tre nodi preliminari sciolti con l'accordo annunciato ieri mattina assieme ai diritti dei cittadini espatriati e al confine con la Repubblica d'Irlanda. Al servizio. We discussed the joint report agreed by the two negotiators. Prime Minister May has assured me that it has the backing of the UK government. Con una resa quasi incondizionata, la Gran Bretagna conquista il passaggio alla fase 2 del negoziato con Bruxelles, quella che dovrà definire le relazioni economico-commerciali post-Brexit, se naturalmente il summit dei premier di metà dicembre ratificherà il sì dei negoziatori della Commissione europea. Un nuovo colpo di scena tuttavia appare improbabile e Londra crediamo che possa inaugurare il 2018 con le trattative nel merito delle future relazioni. Tutto chiarito dunque sui termini dell'addio? Non esattamente. Londra pagherà una cifra da definire. Il metodo di calcolo è stato stabilito, la somma esatta non ancora, ma il Regno Unito farà fronte a tutti i suoi impegni fino al 2020 e si tratta comunque di un assegno compreso fra i 40 e i 60 miliardi di euro, ovvero quanto sempre richiesto dall'Unione Europea. Londra garantirà ai cittadini UE, i residenti nel Regno di Elisabetta, i diritti sanciti dagli accordi esistenti, con forse qualche minima correzione relativa a casi specifici di ricongiungimenti familiari. Darà inoltre un ruolo alla Corte di Giustizia per i prossimi 8 anni, assicurerà allineamento regolamentare fra Ulster e Repubblica d'Irlanda, mantenendo continuità economica sull'isola come voluto da Dublino. L'ostacolo su questo punto sollevato dagli unionisti del DUP è stato aggirato con una formula sintattica che esclude sia frontiere fra Belfast e Dublino, sia frontiere fra Belfast e Londra. Come questo sia possibile non è chiaro e il margine di ambiguità troverà soluzione nella seconda fase della trattativa. L'impegno è comunque che non ci saranno frontiere solide e questo lascia credere che potrebbe essere tutta la Gran Bretagna a doversi adeguare all'allineamento regolamentare citato nel documento sottoscritto. Londra è consapevole di aver ceduto su tutta la linea e di aver disatteso i proclami dei Brexiters. Lo ha fatto per poter dare garanzie alle imprese con un periodo di transizione di 2 anni in cui tutto rimarrà come è ora, successivo all'uscita dall'Unione Europea, cioè successivo al marzo 2019, e lo ha fatto nella speranza di portare a casa risultati concreti nella seconda fase del negoziato, che resta la più complessa. È improbabile che accada. Anche in questo caso Bruxelles seguirà una procedura che non lascia margini di flessibilità. La prospettiva che Londra possa uscire dall'UE impoverita e indebolita dal caos Brexit si conferma la più realistica, come era apparso evidente dall'alba del 24 giugno 2016, il giorno dopo il referendum. When we met on Monday, we said a deal was within reach. What we have arrived at today represents a significant improvement, and I'm grateful to the negotiating teams led by David Davis and Michel Barnier for their efforts. Questo dunque per quanto riguarda la Brexit, la lunga trattativa verso il 2019, dunque la famosa scadenza con tanto di ora, quando il processo dovrebbe essere completato. Nel frattempo, sempre ieri, un accordo importante che implica un potenziale aumento delle esportazioni UE verso il Giappone fino a oltre 20 miliardi di euro, di cui 10 solo per i prodotti alimentari, cosa che dovrebbe interessarci parecchio come italiano. Questo il valore dell'accordo di libero scambio tra UE e Giappone, formalizzato ieri a Bruxelles, intesa che dovrà essere approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo e che potrebbe entrare in vigore, anche questo in direzione inversa, anche se naturalmente sono due temi completamente distinti, nella stessa primavera del 19. Sentiamo. Non hanno esitato a lanciare una frecciata al presidente americano Donald Trump. In una dichiarazione congiunta, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il premier giapponese Shinzo Abe hanno annunciato la finalizzazione del negoziato per un grande accordo di libero scambio tra Europa e Sollevante, sottolineando che questo dimostra una potente volontà politica comune di rilanciare le liberalizzazioni commerciali nel mondo e di combattere ogni tentazione di protezionismo. Al contrario, Trump ha affossato l'accordo multilaterale TPP e durante il suo recente viaggio in Asia ha mostrato di disprezzare la stessa WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Il Free Trade Agreement, dopo le ratifiche, dovrebbe entrare in vigore agli inizi del 2019, eliminerà dazi e barriere non tariffarie e aprirà nuove opportunità anche per le imprese italiane, specialmente quelle del settore agroalimentare. Tokyo, ad esempio, eliminerà da subito i dazi sul vino e ridurrà di molto quelli sui formaggi, mentre Bruxelles toglierà del tutto tra 8 anni i dazi sull'auto giapponese. Stracciato il capitolo più controverso, quello sui meccanismi di risoluzione delle dispute sugli investimenti. Su questo le trattative continuano, mentre si crea un'area di libero scambio che copre il 30% dell'economia mondiale e 600 milioni di persone. Stefano Carrer, Radio 24, Sole 24 Ore, Tokyo. Paradisi fiscali o simili paradisi fiscali all'interno dell'Unione? In realtà ce ne sono davvero molti, troppi. Alcuni sono all'interno degli spazi britannici, tra possedimenti, isole della Manica e vari, ma non solo, ce ne sono proprio nella genetica di questa costruzione. Ci sono molte zone grigie dove l'assenza di un sistema comune di tassazione favorisce enormi disparità tra i membri dell'UE, 27 o 28 che siano. Uno dei casi più importanti è quello di Apple, che da sola vale il 10% dell'export irlandese. È chiaro che chi si vede offerto un affare di questa portata, insomma, è molto tentato, ed è per questo, in attesa che l'UE abbia, se mai lo avrà, un ministro delle finanze unico, che diventa importante quello che è accaduto questa settimana a Dublino. Trovato l'accordo tra Apple e Irlanda sui 13 miliardi di tasse evase che per Bruxelles sono aiuti di Stato, dopo circa un anno e mezzo dalla richiesta della Commissione europea, il big americano accetta di versare la somma a Dublino, che inizierà a incassarla a rate all'inizio del 2018 e resterà in un conto di garanzia in attesa della Corte di giustizia europea. I fondi saranno infatti sbloccati dal conto solo nel caso in cui la Corte dichiarerà valida la decisione europea dell'agosto 2016, secondo la quale Apple, che ha fatto ricorso, deve i 13 miliardi di tasse non pagate per il periodo 2003-2014, che sono pari al 10% dell'intero valore dell'export irlandese. Dietro questo conto salato c'è il meccanismo del Double Irish, non un cocktail ma un mix di norme irlandesi e americane, sfruttato dal gigante di Cupertino e dalle altre multinazionali per non pagare a Dublino nemmeno l'agevolata corporate tax, il 12,5% di tasse sui profitti per le vendite, un sistema che ha portato la casa dell'iPhone a pagare 2 anni fa meno di 50 euro per ogni milione di profitti. La commissaria europea alla concorrenza Margaret Vestager precisa che se l'Irlanda recupererà i fondi, l'Europa chiuderà la procedura di infrazione contro il paese che aveva aperto ad ottobre. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E a proposito di concorrenza e della commissario Vestager, c'è preoccupazione anche su un altro fronte di cui abbiamo parlato parecchio questa settimana, e mi riferisco ai grandi vettori di trasporto, quindi Lufthansa, l'ipotesi di acquisto all'Italia, insomma tutto questo discorso che ovviamente riguarda parecchio anche il nostro paese. Nel frattempo però Bruxelles ribadisce la preoccupazione sul fatto dell'acquisizione da parte di Lufthansa di Air Berlin e dice: siamo molto preoccupati, naturalmente il dicastero è quello di Margaret Vestager, perché c'è il rischio che su alcune rotte Lufthansa diventi di fatto monopolista. Con questo chiudiamo questa prima parte di Europa Europa, vi ricordo solamente europa@radio24.it per appunto le mail, per le vostre richieste o comunicazioni con noi. Adesso sentiamo le notizie per chi è in viaggio e poi torniamo con altre storie che riguardano l'Europa, cioè tutti noi. A tra poco. Europa Europa. Ancora un saluto e un buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Roberta Frisani in regia. Ripartiamo da una storia anche questa che potremmo definire vecchia ma con una novità. Il tema è quello dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. La Commissione UE ha deciso di portare l'Italia davanti alla Corte di Giustizia Europea. Nonostante una direttiva del 2013, una procedura di infrazione aperta nel 2014 e 3 anni di attesa da parte di Bruxelles, l'Italia continua a sfondare più che sforare i termini dei 30 giorni fissati dall'UE. Secondo Bruxelles restano oltre 3 volte tanto, cioè 100 giorni, anche se da parte italiana non c'è concordanza di vedute sulla cifra. Insomma, una distanza enorme che penalizza le imprese, una procedura peraltro che era stata avviata dallo stesso Tajani, oggi presidente del Parlamento, quando invece era appunto commissario. Una questione che si è aperta durante il governo Monti e che oggi appunto segna un ulteriore passaggio. La Commissione UE, lo ricordo, ha deciso di portare l'Italia davanti alla Corte di Giustizia e staremo a vedere. E ora la pagina internazionale. Il presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen parteciperà al prossimo consiglio degli esteri UE a gennaio. Questo è l'annuncio dell'alto rappresentante per la politica estera Federica Mogherini dopo l'incontro con il ministro degli esteri Giordano avuto in settimana. Insomma, questa è per adesso la risposta dell'Unione Europea alla decisione di Donald Trump, di cui sentite parlare appunto anche in questo fine settimana, di cui alcune conseguenze insomma sono di fronte agli occhi e alle orecchie di tutti. Questa decisione, dicevo, di trasferire formalmente nel 2019, anche in questo caso, l'ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv a Gerusalemme. Servizio. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital. Con poche parole, Donald Trump ha strappato decenni di diplomazia americana in Medio Oriente, riconoscendo Gerusalemme come la capitale di Israele. Una scelta shock che ha scatenato la pressoché unanime condanna della comunità internazionale, dall'Europa alla Cina, dall'ONU al Papa, fino ai paesi arabi filo-occidentali. Tutti allarmati dal pericolo che lo strappo apra una nuova stagione di drammi nella regione e segni la fine di qualunque speranza di processo di pace tra palestinesi e israeliani. Nei territori occupati sono stati proclamati 3 giorni di proteste. Trump ha negato di voler rinunciare alla pace, si è detto anzi convinto che la decisione su Gerusalemme sia solo la giusta constatazione di una realtà e che favorirà, non interromperà, l'impegno americano a favore di un accordo. Ha aggiunto che rimane per una soluzione basata su 2 stati per 2 popoli, ma ha poi dato seguito con atti concreti alla svolta che sanciscono la rottura. Ha ordinato al Dipartimento di Stato di costruire una nuova ambasciata USA a Gerusalemme, anche se richiederà anni. Marco Balsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. E adesso parliamo di sicurezza stradale. In arrivo l'obbligo di guida assistita. Nel 2016 25.671 morti per incidenti in tutta l'Unione Europea, 70 al giorno in media, e ora una strategia per ridurla. È stato votato a Bruxelles l'obbligo della guida assistita. Silvia Bernardi ne ha parlato con l'europarlamentare Renata Briano e ci spiega in che cosa esattamente consiste questa misura. È in arrivo una rivoluzione, o meglio un'evoluzione, nel campo della sicurezza in auto. Sistemi di frenata autonoma, rilevatori di pedoni, assistenti alla velocità intelligenti dovranno essere obbligatori su tutti i veicoli prodotti in Unione Europea. Quelli che erano e sono ancora optional, costosi a disposizione di pochi, dovranno quindi diventare la normalità della circolazione. Non lo impone solo Bruxelles, ma anche il numero ancora troppo alto di vittime di incidenti stradali. Qual è questo numero? Nel 2016 sono state 25.671 le morti per incidenti in tutta Europa, una media di 70 al giorno. Nel corso degli anni, va detto, la situazione generale è migliorata, ma rispetto all'obiettivo fissato nel 2020, quello di dimezzare i numeri, il calo in 7 anni è stato solo del 18%. Adottare tutte le tecnologie più avanzate per mettere in sicurezza i veicoli diventa di conseguenza prioritario. Ne parliamo con l'europarlamentare Renata Briano, che saluto, e le chiedo che cosa avete deciso recentemente a Bruxelles. Contraccambio i saluti. A Bruxelles abbiamo espresso la necessità di rendere obbligatori i sistemi di guida assistita. Naturalmente non stiamo parlando di sistemi fantascientifici, ma di sistemi che sono già in uso in un numero limitato di vetture, soprattutto quelle di alta gamma. Questi sistemi prevengono gli incidenti, frenando o diminuendo la velocità nel caso la macchina rilevi la presenza di pedoni o ciclisti, assistono il guidatore nel mantenere la velocità consentita, aiutano a mantenersi in carreggiata con segnali sonori e sono anche in grado di sterzare automaticamente per far mantenere la corsia all'auto. Allora, si tratta di dotazioni che sono già esistenti e che dovranno quindi essere applicate su tutti i veicoli. I costi ricadranno, come gli obblighi, a questo punto sulle case automobilistiche. Non c'è però il rischio che in qualche modo vadano a incidere anche sul prezzo finale dell'auto che si va ad acquistare? Questa è la domanda ed la risposta sta a noi. Quello che dobbiamo proprio evitare è che il costo ricada poi sugli utenti. Però è anche vero che la variazione di prezzo sarebbe molto modesta e obbligando tutte le case automobilistiche a inserire questi sistemi sarebbe un'innovazione fatta in larga scala che quindi costerebbe molto meno. Lo si è visto già per quanto riguarda il settore automobilistico con l'introduzione dell'ABS. Infatti, per fare in modo che la sicurezza dei cittadini non dipenda da quanto possono spendere, perché questo diciamo quello che è sbagliato oggi, abbiamo suggerito di installare obbligatoriamente su tutte le auto quei dispositivi già presenti in commercio che hanno una provata influenza sulla sicurezza stradale. Uno di questi, per esempio, è la frenata automatica di emergenza in presenza di ciclisti o pedoni, dove si registrano anche la maggior parte di incidenti stradali. Ed è una tecnologia che c'è già, basta estenderla e quindi questo permetterebbe anche di contenere i costi e di permettere a tutti noi di usarla. E di fare in modo dunque che la sicurezza non sia parte integrante dell'uso, ma sia una cosa ben distinta sulle automobili europee. E infine con Chiara Bussi, che ci porta a conoscere un'iniziativa rivolta ai giovani nell'agenda dell'Unione Europea. Sentiamo. Sono il 20% della popolazione europea, eppure la politica tende spesso a dimenticarlo. Un piccolo rimedio però c'è. L'1 e 2 giugno 2018, 8.000 giovani provenienti da tutti i paesi europei potranno far sentire la loro voce. L'iniziativa si chiama AI, che sta per European Youth Event, giunta alla terza edizione. 2 giorni di dibattiti, incontri e riflessioni a Strasburgo, nella sede del Parlamento europeo. Gli ultimi chilometri di Francia che si affacciano sulla Germania, simbolo di un'Europa che dopo le devastazioni della guerra ha cercato l'unità. Federico De Girolamo, addetto stampa del Parlamento europeo, quali temi verranno affrontati nell'edizione di quest'anno? Il programma si compone di più di 200 attività, un quarto organizzate dal Parlamento europeo e il resto da partner o varie associazioni giovanili. E sono raggruppate sotto 5 tematiche principali. Nuovo e vecchio starà al passo con la rivoluzione digitale, quindi digital divide, ricchi e poveri, reclamare una giusta divisione e quindi i problemi sociali, separati e uniti, lavorare per un'Europa più forte, questo è l'emergenza della migrazione, sicuri e in pericolo, sopravvivere in tempi turbolenti, chiaramente questo si riferisce alla questione della sicurezza, e infine locale e globale, proteggere il nostro pianeta e quindi il cambiamento climatico e l'ambiente. Quali sono i requisiti per partecipare? Dunque, per la terza volta il Parlamento europeo accoglierà a Strasburgo 8.000 partecipanti da tutta l'Europa per stimolare il dibattito con e per i giovani, permettendo loro di scambiarsi idee, sviluppare soluzioni innovative per quelle questioni cruciali per il futuro che abbiamo elencati. Gli unici requisiti richiesti sono essere iscritti in un gruppo di almeno 10 persone avere tra i 16 e i 30 anni e padroneggiare almeno una delle tre lingue dell'evento, che sono inglese, francese e tedesco. Non è richiesta nessun'altra preparazione speciale e i gruppi scolastici e universitari interessati possono venire accompagnati anche dai loro docenti. La partecipazione è gratuita, mentre bisogna provvedere alla sistemazione. Come si presenta la domanda? Per iscriversi alla domanda bisogna andare sul sito www.eie, che è AI in inglese, quindi eie2018.eu. I risultati saranno raccolti in un documento che verrà distribuito agli eurodeputati a luglio e discusso nelle commissioni il prossimo autunno. Un primo passo per costruire un'Europa a misura di giovani. Grazie dunque anche a Chiara Bussi, grazie a Leonardo Maisano, a Stefano Carrera, ad Anna Marino, a Marco Valsani, a Silvia Bernardi che hanno realizzato i contributi di questa puntata, a Roberta Frisani che si è occupata della regia. Da parte mia un saluto, un ricordo ancora una volta: europa@radio24.it, anche magari per chiedere chiarimenti su bandi e segnalazioni che vi facciamo. Vi lasciamo naturalmente all'ascolto dell'attualità, dell'ultima attualità con GR24, e noi ci risentiamo sabato prossimo. Un saluto.